Saranno luci, poi baci, feroce, veloci scosse elettriche. Di rabbia e polvere attraverso di te, di me. Saranno spine, catene, diluvi con fiori lucentissimi d'oro e di ruggine che attraverserà te e me e te e me. Saranno giorni d'attesa che scriverò un cielo e non sentirò il peso di un altro giorno passato a cui stringo la mano e gli chiedo se passano tutte le cose che vedo e che scrivo a cui credo. Dimmi perché a quel che passa sorrido e poi penso che t'amo. Saranno i giorni che vivo e che scriverò in cielo per perdere il peso di ogni giorno che passa a cui stringo la mano e gli chiedo se passano tutte le cose che vedo e che scrivo a cui credo, perché ogni cosa che passa sorrido e poi penso che. Poi penso che...